Il ricevitore fa cre, ma nessuna voce risponde. Senti solo una presenza, non è neppure un respiro, perché non respira. Dall'altra parte del filo c'è una presenza che sta lì ad ascoltare la presenza del tuo silenzio. E allora riattacchi, esci per strada. A tornare a casa non ci pensi neppure, sai benissimo che il telefono squillerebbe. Tu lo lasceresti squillare una volta, due volte, tre volte. Poi prenderesti il ricevitore e lo porteresti all'orecchio. E dall'altra parte niente, solo la densità distinguibile di una presenza che in silenzio ascolta il silenzio della tua presenza. Arrivi di nuovo al fiume. Ora gli imbarcaderi sono deserti. I battelli hanno cessato il servizio, non c'è più nessuno. Ti siedi sulla spalletta del lungo fiume. L'acqua è limacciosa e inquieta. Forse c'è l'alta marea e il fiume sfocia con difficoltà. Sai che è tardi, ma non nel senso dell'orologio. Intorno a te l'ora è vasta, solenne, grande come lo spazio. Un'ora immobile che non è segnata sul quadrante e tuttavia leggera come un sospiro, rapida come un colpo d'occhio. Anywhere Out of the World di Antonio Tabucchi, lettura di Ermanno Nastri. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con il musicista Caniolo Guercio per presentare l'evento legato al libro Cantare il disincanto. A Roma, lo spazio Off in piazza San Cosimato 39 a Trastevere, venerdì 18 aprile 2025. Ben trovato. Ben trovato, ciao, eccoci. L'evento prevede in apertura uno stralcio di uno studio per la messa in scena di un monologo con canzoni tristi e poi la presentazione del libro Cantare il disincanto, disagio e malinconia nella canzone d'autore italiana negli anni del miracolo economico, libro al quale tu hai collaborato. Partiamo dal libro. Che cos'è questo progetto? È un libro abbastanza inusuale nel panorama italiano nell'indagare questo fenomeno della canzone d'autore in Italia, soprattutto nel periodo dei primi anni 60, perché è un libro che non è stato scritto da un esperto musicale, ma da uno storico che ha analizzato soprattutto i testi di quel periodo in cui appunto c'era il miracolo economico da una parte, mentre questi testi sembravano andare in direzione completamente opposta. Lo storico è Giulio De Martino. Poi ha chiesto a me in particolare di dargli una mano a completare questo suo lavoro e così ho coinvolto anche l'economista Salvatore Rossi che ha fatto la prefazione al libro, insomma inquadrando il tema di quel periodo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista personale, e poi il filosofo Carlo Serra che ha trattato alcuni argomenti di carattere generale. Io col mio contributo ho scritto un testo più che altro delle memorie personali che si intrecciano con un racconto che è diventato appunto uno spettacolo di cui farò una piccola parte quando presenteremo il libro. Com'è strutturato il libro? Con questa prefazione di Salvatore Rossi, poi il corpo del libro sostanzialmente è stato scritto dallo storico Giulio De Martino e poi due appendici, un mio testo più quello di Carlo Serra che è il filosofo di cui dicevo prima, musicologo, insegna estetica musicale all'Università di Torino, insomma una persona molto preparata. Che mosaico esce fuori rispetto alla canzone d'autore in quegli anni? Noi ci troviamo in un periodo storico, stiamo parlando del dopoguerra, ecco. La prima canzone che viene analizzata è il Vecchio Frac di Modugno, cioè che è la canzone che parla di un suicidio, ecco. Siamo nel 58-59, quindi siamo all'inizio di questo boom economico in cui appunto la televisione, l'automobile, il frigorifero, il benessere, le strade, tutto sembra andare nella direzione di una felicità diffusa e condivisa, ma in parte anche vera perché la guerra è stata terribile in Italia, però appunto queste canzoni, che poi tra l'altro il punto non è soltanto il fatto che alcune persone, alcuni artisti scrivessero delle cose malinconiche, tristi, spesso appunto la morte è un argomento che rientra molto nei loro testi, ma c'è anche un'industria discografica, quindi dei produttori che investono su questi signori, e meno male perché poi queste canzoni sono rimaste nella storia della musica. Lo studio per la messa in scena, parlacene un po'.

e la partecipazione straordinaria di Laura Garofoli, mentre invece da 17 a 19 aprile abbiamo Alice da Grande, questo spettacolo scritto e interpretato da Bruna Mandolini con la regia di Paolo Ricchi. Allora, il primo è una commedia, chiaramente, insomma, siamo in una baita di montagna in mezzo alla neve dove si ritrovano due attori piuttosto noti, si scambiano battute, insomma, sulla loro attività e poi, insomma, sulla loro vita passata. Mentre invece l'altro spettacolo, Alice da Grande, si parla di Alice, orfana nel Paese delle Meraviglie, precipitata nel traffico, nel caos di una piazza di Roma. Alice da Grande è uno spettacolo multimediale fiabesco che racconta in modo surreale, insomma, gli scontri con il mondo del lavoro, con l'autenticità nella vita, i disagi delle scelte creative. Questo, insomma, sembra piuttosto interessante. 17-19 aprile, Teatro Tor Bella Monaca, per questo Alice da Grande. E procediamo, perché andiamo immediatamente al Teatro Lo Spazio, dove dal 15 fino al 18 di aprile andremo a vedere con la regia di Duccio Camerini questo spettacolo Sei Re. Attenzione però, è uno spettacolo di, la dico piano perché va bene, va assimilata, Duccio Shakespeare e William Camerini, ed è quindi una riscrittura, rilettura da Riccardo II, Enrico IV parte prima, Enrico IV parte seconda, Enrico V, Enrico VI parte prima e seconda e terza, Riccardo III, dal 15 al 18 aprile al Teatro Lo Spazio, con questo lavoro, credo, un po' particolare di Duccio Camerini e William Shakespeare e questa coregia, diciamo, dal titolo Sei Re. Seguo dopo questo con Le Streghe da Marciapiede, che al Teatro Vittoria saranno con la regia di Stefano Amatucci, il testo è di Francesco Silvestri, ci sono vari attori in scena, e appunto questo Streghe da Marciapiede cosa racconta? Una black comedy in cui quattro prostitute si trovano inquisite perché accusate dell'omicidio di un giovane avvenuto nella loro casa. Questo è tutto sommato il programma in questione. La cosa particolare è che queste quattro, sì, le streghe e un altro personaggio maschile, protagoniste di questo spettacolo, sono anche protagoniste di Un posto al sole. Dal piccolo schermo si esce per interpretare questa black comedy di quattro prostitute. Mi fa molto ridere la cosa perché, diciamo, credo che ci siano molti telespettatori di Un posto al sole convinti che tutto sommato queste persone esistano esclusivamente nello schermo per interpretare questi personaggi. Poi siamo al Teatro India per Lacrimosa, l'anteprima nazionale di questo spettacolo con Simone Zambelli, cui drammaturg e coreografa di scena è Cinzia Sità. Si tratta di un lavoro in anteprima assoluta che sarà appunto il 15 e 16 aprile, quindi oggi e domani. E si tratta di un lavoro di frammenti scritti e sonori di Simone Zambelli, che è un danzatore che abbiamo visto anche al teatro e al cinema con Emma Dante negli ultimi anni, che si concentra sulla dicotomia tra morte e rinascita, che poi ha molto a che vedere con la vita tout court e col teatro maggiormente, insomma, anche perché il teatro poi è in qualche modo una sorta di percorso di acquisizione alla vita, poi per certi versi. Quindi 15 e 16 di aprile, Teatro India per la danza di Simone Zambelli con Lacrimosa. Segue Orbita, Spellbound, presenta la sua stagione, quindi con questa volta siamo allo Spazio Rossellini, dove andiamo a vedere due lavori, questo focus di due spettacoli di danza contemporanea della compagnia della Repubblica Cechia, anzi, diciamo le cose bene, Farm in the Cave, due prime nazionali, il 15 e il 17 di aprile. Il 15 Refuge, in prima nazionale, mentre invece il 17 Commander, e si tratta di due spettacoli di danza che hanno a che vedere con la sofferenza di chi fugge e per capire come un adolescente qualunque si possa trasformare in un neonazista. Ecco, due spettacoli per andare dentro al cuore nero del mondo contemporaneo. 15 e 17 al Teatro dello Spazio, allo Spazio Rossellini, insomma, diciamo bene. Lo Spazio Diamante invece questa sera, ancora una sera per questo Io e Tu, di Gianluca Merolli, con in scena Aurora Spreafico e Derlido Rosario Suarez, credo e spero che si pronunci in questo modo. Un pomeriggio Anthony arriva inaspettatamente alla porta della compagna di classe Caroline con una copia malconcia di Leaves of Grass di Walt Whitman, un compito urgente della loro insegnante di inglese. Io e tu, appunto, il testo di Lauren Kunderson, che Gianluca Merolli porta in scena ancora questa sera nella sala Black dello Spazio Diamante. Al Teatro Basilica, dove andiamo a vedere dal 15 da oggi fino al 17 di aprile Poetic Punkers, Mario e Maria, il turista del sentimento. La scrittura è di Natalia Vallebona e Faustino Blanchut. Natalia Vallebona che si occupa anche della coreografia e della regia, mentre invece la drammaturgia e l'interpretazione con altri attori e danzatori è quella di Faustino Blanchut. Insomma, andiamo a vedere questi Poetic Punkers, una tragedia danzata, comica, poetica, dissacrante, che con l'ironia mette in luce la nostra incapacità di emanciparci da regole e abitudini, tanto che diamo ancora ai nostri figli sempre gli stessi nomi, Mario e Maria. Questo è un po' il gioco in cui questi personaggi si trovano, che stanno insomma all'interno di certe regole della morale, dell'essere buon cristiani, e andiamo a vedere come le metteranno in discussione. Lo faremo dal 15 al 17 al Teatro Basilica. E a me non resta altro che ricordare gli ultimi due appuntamenti. Il primo è al Teatro Quirino Vittorio Gassman questa sera, con il ritorno di un grande spettacolo, in realtà scritto, interpretato da Saverio Laruina. Questa sera alle ore 21 va in scena L'aborto, questo monologo scritto, interpretato e diretto da Laruina, che ci porta all'interno di una storia del sud, di una interruzione di gravidanza definita attraverso anche una certa incultura, un certo analfabetismo, una cultura patriarcale retrograda che ai giorni nostri torna fortemente fuori. Quindi essendo anche questo, pur essendo questo uno spettacolo molto vecchio in realtà, tra i 10 e i 15 anni fa, adesso non ricordo con precisione, uno si spera in qualche modo, no, di non trovarci di fronte a queste storie che invece ci troviamo costantemente di fronte. No, l'ho trovato in realtà, è del 2009, quindi siamo a 16 anni fa, ecco, avevo detto quasi bene. Ma l'ultimo spettacolo di cui ricordiamo è invece quello delle Carrozzeria Orfeo al Teatro Vascello. Dal 15 al 19 di aprile Salveremo il mondo prima dell'alba, ed è uno spettacolo già stato a Roma in realtà, se non vado errato, lo scorso anno. Carrozzeria Orfeo cerca di indagare il mondo del benessere, dell'apparente successo, dopo aver indagato insomma negli spettacoli precedenti il mondo degli ultimi, degli esclusi, dei perdenti, e adesso si va a cercare i vincenti, la classe dirigente, i ricchi, cioè coloro che in qualche modo sono i conduttori, ecco, di questa nostra società, per capire un po' come la mentalità capitalista abbia trasformato le nostre menti in assoluto, e per andare anche a cercare di individuare la purezza dei sentimenti, gli affetti sinceri, tutto ciò che appunto la mentalità capitalista non può comprare. Quindi questo è un punto interessante del discorso da segnalare. Salveremo il mondo prima dell'alba, Carrozzeria Orfeo, la drammaturgia di Gabriele Di Luca, al Teatro Vascello. E direi che con questo abbiamo concluso. Un abbraccio a tutte e tutti. Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.